Elvis Presley con Viva Las Vegas. Tanti auguri al re. Buon compleanno, anche se purtroppo non c'è più da molto tempo. E il secondo compleanno di oggi è un altro grandissimo compleanno, ovvero David Bowie, nato a Londra l'8 gennaio del 1947. Il Duca Bianco. È un cantautore, polistrumentista, attore anche lui, e compositore britannico. Attivo dalla metà degli anni 70, Bowie ha attraversato 5 decenni della musica del rock, rinvenendo nel tempo il suo stile e la sua immagine e creando personaggi come Ziggy Stardust, Halloween Jack and the Twin White Duck, ovvero il Duca Bianco. Appunto. Un folk acustico, dal folk acustico all'elettronica, passando attraverso il glam rock, il soul, il krautrock, David Bowie ha lasciato tracce che hanno influenzato moltissimi artisti nel futuro. David Bowie, New Killer Star. Allora, un attimo che arriviamo subito, c'è stato un attimino di... Ci siamo. Ecco, ho trovato la canzone. Oh, Era David Bowie con New Killer Star. Tanti auguri anche al Duca Bianco. Lui li può ancora festeggiare, a differenza di Elvis. Lunga vita. Lunga vita. Adesso vi parliamo dell'anno 1967 e la canzone top dell'anno fu Respect di Aretha Franklin. Incisa dalla stessa nel 1967, diventò uno dei suoi più grandi successi. Nel testo si parla di una donna che chiede al proprio compagno di essere considerata e rispettata per il suo essere nera e per il suo essere donna. Gli Stati Uniti nel 67 avevano molti movimenti femministi e per l'abolizione delle forme dell'apartheid a danno della minoranza afroamericana sono in piena affermazione. La versione della Franklin diventa un inno di questi movimenti. La richiesta di rispetto contenuta nella canzone viene allargata all'intera società statunitense. La canzone è oggi considerata, pensate, tra le migliori dell'era del rock and roll ed è alla quinta posizione nella classifica della rivista Rolling Stone delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi. Con questo risultato, la regina del sole è la prima donna a comparire nella lista. Respect, Aretha Franklin. Ed era Aretha Franklin con Respect. Adesso andiamo avanti nella nostra storia, vi parliamo di un genere musicale un po' particolare, diciamo, della musica psichedelica. La psichedelia è un sottogenere di musica rock sviluppatosi contemporaneamente negli Stati Uniti e nel Regno Unito, a cavallo tra gli anni 60 e gli anni 70. Si ispira alle esperienze di alterazione della coscienza derivanti dall'uso di droghe come cannabis, allucinogeni, mescalina e soprattutto LSD. Il termine si riferisce alle esperienze di alterazione della coscienza causate dagli allucinogeni e altri stupefacenti, e intese spesso come un affiorare, attraverso la modifica della percezione, di livelli profondi e altamente nascosti della psiche. La prima volta che fu usata la definizione di rock psichedelico viene solitamente ricondotta agli Elevators, un gruppo che nel 66 pubblicò un album dal titolo The Psychedelic Sounds. Il rock psichedelico era in genere concepito come una musica suonata sotto l'influsso di sostanze stupefacenti da ascoltare in analoga condizione. L'assunzione filosofica, implicita o esplicita, era che questa condizione uguale del musicista e anche da parte dell'ascoltatore consentisse una comunicazione artistica a un livello particolarmente profondo e irraggiungibile dalla tradizionale musica definita lucida. In relazione a questo atteggiamento va anche letta l'importanza attribuita da alcuni musicisti a piante psicotrope come il peyote, associato a delle antiche tradizioni sciamaniche dei nativi americani e quindi dotato di una valenza spirituale e metafisica specifica. La tradizione dei nativi americani gioca per esempio un ruolo fondamentale nella simbologia psichedelica di un gruppo, di un grandissimo gruppo, i Doors. I Doors si sono formati nel 1965 nella città di Los Angeles. Il loro nome era tratto dal libro Le porte della percezione, del quale la mescalina contenuta nel peyote veniva presentata come uno strumento per espandere la coscienza. Il loro celebre singolo, Light My Fire, conteneva un riferimento in un celebre verso che la televisione cercò invano di censurare durante l'apparizione live del gruppo all'Ed Sullivan Show. Ragazza, non potremo essere più in alto, recitava il verso, dove però l'altezza, nello slang, si riferisce agli effetti della droga. Light My Fire era una canzone di Robbie Krieger di cui ne scrisse la melodia e quasi tutte le parole, con soltanto una minima partecipazione di Jim Morrison, ma Ray Manzarek aveva concepito un rutilante introduzione organistica. Mentre gli altri componenti se la stavano spassando in spiaggia, dalla casa adiacente si sentiva il suo organo provare vari arrangiamenti, quando come per magia Jim, Bobby e John udirono quello giusto, quello vero, autentico, che subito venne considerato alla stregua di un paradigma del sound dei Doors. Ancor più significativo era che il brano durasse 7-8 minuti e che si trattasse in massima parte di un interludio strumentale capace di rendere palese come i Doors fossero qualcosa di più del solo Jim Morrison. La band dichiarò di non suonare mai due volte allo stesso modo questo brano, ma di utilizzarlo come un telaio immaginario su cui tessere di volta in volta complesse improvvisazioni per creare un clima vertiginoso. Jim Morrison in un'intervista confidò di odiare questa canzone e che detestava il pubblico quando la richiedeva a gran voce nei concerti. Vale a capire. Light My Fire, Jim Morrison. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Thank you. meditate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The Doors con Light My Fire. Abbiamo regalato la versione estesa, come dicevi prima, in descrizione. Adesso continuiamo e parliamo dei Beatles. Il panorama rock psichedelico è piuttosto eterogeneo. Infatti diversi gruppi e artisti hanno reinterpretato in chiave psichedelica diversi sottogeneri di musica rock. Fra i generi di riferimento più frequentemente adottati vanno citati il blues rock, Doors, in parte Pink Floyd, per farvi capire un attimo il genere, l'hard rock e il jazz rock. Vi sono differenze anche rispetto alle modalità di rappresentazione musicale dell'alterazione di coscienza. Alcuni artisti si sono avvalsi di espedienti tecnici volti a creare suoni particolarmente insoliti, usando in modo esasperato effetti sonori o inserendo nei brani registrazioni riprodotte all'indietro a velocità modificata, voci o altri rumori e così via. Sembra più un film horror che... No, poi grosse discussioni su queste canzoni rimandate all'indietro. Sì, no? messaggi un po' particolari, subliminali. I testi dei brani sono spesso esoterici e descrivono sogni, visioni o allucinazioni, come nel classico Lucy in the Sky with Diamond dei Beatles. Immagina te stesso in una barca su un fiume, con alberi di mandarino e cieli di marmellata. Qualcuno ti chiama, tu rispondi lentamente. Una ragazza con gli occhi caleidoscopici. Secondo voi è un caso che le iniziali del titolo formino l'acronimo LSD? La canzone fu bandita, infatti, dalle radio con grande sorpresa di Lennon, che giurò di non aver mai fatto caso alla coincidenza. Lucy in the Sky with Diamonds, Beatles. Yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you away. Lucy in the sky with diamonds. with plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope arrivato il tecnico. È arrivato. Saluta per bene. Non me ne ero accorto. Salve a tutti gli ascoltatori. Ma non è che è sempre stato qua. Sì, no, c'ero qui. La sua, secondo me era giù al bagno. La sua presenza aleggiava, sì, in qualche modo. Secondo me era al bagno. E quella che avete appena ascoltato era All You Need Is Love, ovviamente dei Beatles. Beatles ai quali era stata richiesta una canzone contenente un messaggio semplice che fosse comprensibile per tutti, per gli spettatori di tutte le nazionalità. Era una canzone molto ispirata e volevamo veramente dare un messaggio al mondo, disse Brian Epstein. Il bello della canzone è che non può essere mal interpretata, è un messaggio chiaro che dice che l'amore è tutto. John era Lennon ovviamente, era affascinato dal potere degli slogan che uniscono la gente e non ebbe mai paura di creare arte impegnata socialmente e politicamente. Quando nel 71 gli chiesero se alcune delle sue canzoni fossero canzoni di propaganda, lui rispose: certamente, come lo era All You Need Is Love. Sono un artista rivoluzionario, la mia arte è impegnata per il cambiamento. Divenne uno degli inni dei figli dei fiori e tutto quanto, dalla coreografia all'abbigliamento dei Beatles e dai tanti coristi di accompagnamento presenti nello studio di registrazione, tra i quali spiccavano le figure di Mick Jagger, cantante dei Rolling Stones, Kim McLagan, moglie di Keith Moon, batterista degli Who. Era stato preparato minuziosamente per trasmettere al mondo un messaggio di pace, di speranza, di amore, di anticonformismo e di protesta. Un altro gruppo influente dallo stesso periodo fu la band folk rock Jefferson Airplane, che nel 67 incise i primi singoli di successo, chiaramente psichedelici, ovvero White Rabbit e Somebody to Love. Il brano scritto da Derby Slick originalmente fu interpretato da The Great Society, band in cui militava Grace Slick prima di entrare nei Jefferson Airplane. Inedita fino a quel punto, la commistione, chi è che ha sbagliato a scrivere, tra musica folk e rock psichedelico, che commissione. Secondo me c'era scritto su via diamine. Che poi invece diverrà una costante nelle composizioni della band. Somebody to Love, Jefferson Airplane. Do you want somebody to love? Questa era Sunshine of Your Love dei Cream, una delle più grandi canzoni rock di tutti i tempi, con un riff per chitarra e basso e un assolo di Mr. Eric Clapton entrati nella storia. Il testo fu scritto da Jack Bruce e Pete Brown. Bruce seguì il suo assolo e Pete guardò fuori dalla finestra mentre il sole stava sorgendo e disse: "It's a getting near down and lights close their eyes." Si stava avvicinando l'alba e le luci chiudono. Sei sicuro che l'abbia detto proprio così? Esattamente. Okay. Magari con più slang. Certo. Ho soltanto tradotto. E le luci chiudono i loro strani occhi. Clapton invece scrisse le parole del ritornello. Perché non lo leggi te? No, io non saprei, guarda. Clapton invece scrisse le parole del ritornello. Incredibile a dirsi, la Atlantic Records rifiutò il brano giudicandolo di scarso appeal commerciale. Il merito della pubblicazione va a Booker T, che non è quello del che non è Westler, no. Ok, no, è un omonimo, che ascoltò i Cream mentre eseguivano il brano in studio. Venuto a sapere della decisione della casa discografica, non esitò a chiamare i capi per dirgli che si stavano sbagliando. E adesso parliamo degli Stones, della loro Let's Spend the Night Together. Adesso una piccola premunta: siamo d'accordo che erano gli Stones e che Mick Jagger con quella bocca poteva dire quel che voleva, ma un invito così esplicito era davvero troppo. In un 67 ricco di istanze libertine psichedeliche, ma pur sempre figlio di un'epoca dove il sesso si poteva fare solo in silenzio, in camera e in casa propria. Figuriamoci dunque se la radio e le televisioni potevano dare spazio a un brano che si intitolava giusto in quel modo, Passiamo la notte insieme. Ovviamente era chiaro a tutti a cosa alludeva il testo. Agli Stones non interessava, la canzone a loro piaceva, era un rock blues con un gran tiro, per di più guidata stranamente dal piano e non dalla chitarra perfetta per essere eseguita dal vivo e per scatenare inevitabilmente l'entusiasmo della gente. Mentre stavano incidendo, questa è una piccola curiosità raccontata a noi alter. Esclusiva dal signor Massimo Cotto. Mentre stavano incidendo la canzone negli studi londinesi, si presentarono due poliziotti. Il panico. La droga era ovunque, anche sotto i cuscini. A risolvere il problema, come il Mr. Wolf di Pulp Fiction, pensò Andrew Oldham, manager degli Stones. Per distrarre i poliziotti disse loro: ehi, perché non ci date una mano? I ragazzi stanno incidendo una canzone dove c'è bisogno di ritmo e non ce n'è mai abbastanza. Vi va di usare i vostri manganelli come percussioni? I poliziotti accettarono, felici di registrare con gli Stones, e si dimenticarono di perquisire. La versione manganellata non vide mai la luce, ma non vide mai la luce nemmeno la droga nascosta ovunque. Let's spend the night together, Rolling Stones. Cha-cha-cha, oh man. Let's spend the night together. Now I need you more than ever. Let's spend the night together now. Ba-ba-da-da, ba-ba-ba, oh man. Ba-ba-da-da, ba-ba-ba-da. I feel so strong that I can't disguise, oh man. Let's spend the night together. Let's spend the night together. Now I need you more than ever. Let's spend Let's spend the night together. Dai, Bindo, let's spend the night together. Dai. Adder. Il nostro fortissimo tecnico ci enuncerà una bellissima canzone, una bellissima track. Esattamente. Ci sono canzoni che nascono in sogno e canzoni che nascono dopo un sogno. È il 26 dicembre del 1966. Hendrix sogna di essere sott'acqua e di essere avvolto da una foschia color porpora che gli fa perdere l'orientamento fino a quando arriva Gesù a salvarlo. Il giorno dopo comincia a scrivere Purple AIDS, Jesus Saves. Poi decide di eliminare Gesù dal titolo. Il brano non ha dunque niente a che vedere con le droghe, anche se esistono pasticche color porpora di LSD, anche se AIDS è un particolare tipo di cannabis. Se due indizi fanno una prova... No, erano tre indizi fanno una prova. Ma in questo caso anche due sono sufficienti. Curiosità. Una famosa società produttrice di bevande l'ha usata in un bellissimo spot pubblicitario nel 2004. C'è un piccolo Jimi Hendrix ragazzino indeciso davanti a due distributori, uno di una bevanda concorrente e uno della suddetta società produttrice. Sceglie quest'ultimo. Mentre beve, si volta verso una vetrina e vede una chitarra elettrica. Così nella sua mente si materializza il riff di chitarra di Purple AIDS, quello che il mensile Q giudica il migliore della storia. Giudica il migliore della storia. De. Lo sguardo del piccolo Hendrix è poi attratto da un negozio di fisarmoniche. La moglie. Diamine. Vicino al distributore della, concorrente. E nella sua mente si sente il riff di Purple AIDS, ma eseguito alla fisarmonica, dunque molto meno affascinante. E sullo schermo compare la scritta: beh, per un pelo. Nel 1990 invece un dottore usava Purple AIDS per risvegliare un paziente nel film Risvegli. Oggi andrebbe usato anche per risvegliare giovani chitarristi, convinti di essere i nuovi Hendrix, ma che di uguale forse hanno solo la foschia viola ad avvolgere i loro menti. Ci puoi metter l'isso. E dopo questa affermazione, Luke, Purple AIDS, Jimi Hendrix. heartbreaker. Foxy. Yeah. And you know you a sweet little lovemaker. Foxy. I wanna take you home. Yeah. I won't do you no harm, no. You got to be all mine. All mine. Ooh, Foxy lady. Precious time. You got to be all mine, all mine. Foxy lady. Here I come. Lady, here I come, baby. I'm coming to get you. Ed era Jimi Hendrix con Foxy Lady e ancora prima Purple Haze. Noi siamo arrivati alla fine anche per oggi. Esattamente. E ricordiamo tutti i nostri appuntamenti, ovvero tutti i mercoledì dalle 19 alle 20 Old Time Rock and Roll qui su Radio F. La pagina Facebook Old Time Rock and Roll, Radio F Valpiana, dove potete trovare il podcast della puntata, di questa puntata. E poi ahimè le feste mi hanno un po' distratto, dovevo mettere anche quello della puntata natalizia che ancora non è pronto. Hai mangiato troppo. Ho mangiato troppo. Sì. E ringraziamo il DJ Luke, il vocalist Nanno e il tecnico fantomatico Bindo, tecnico sempre grazie. In ritardo. Un saluto anche al Masa che è al lavoro e al Pulpa Patro che purtroppo è malato e non è potuto essere con noi. È malaticcio. Noi ci salutiamo e vi salutiamo e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo. Potremmo mandare una bella infermierina a casa. Secondo me non gli disgarberebbe, via. Visita di nero, ovvio. Un ciao a tutti. We'll be right back.